Il concetto di placebo a prima vista sembrerebbe chiarissimo. Si tratta di un bidone farmaceutico, no? Un bidone nel senso felliniano del termine, una sostanza terapeuticamente nulla, costituita soltanto di principi inerti. Viene somministrata o a scopo dichiaratamente psicoterapico, o nella sperimentazione clinica di sostanze invece attive per cercare di eliminare il fattore psicologico nella risposta dell'organismo. Per essere sicuri, insomma, che il tale effetto è proprio dovuto al tal farmaco e non alle opinioni che di quel farmaco il paziente si è fatto. Sembrerebbe dunque chiaro che senza cultura, senza conoscenza, convinzioni, attese riguardanti il farmaco e il suo ruolo in quello che si sa essere un processo terapeutico, senza tutto questo niente placebo. Meno chiaro invece diventa il tutto dopo aver letto il Corriere Salute. Su quella ricerca sulla molecola della memoria condotta all'unisono in tre università americane. Sembrerebbe che alcuni ricercatori abbiano individuato una sostanza che incrementa la memoria e che questa ricerca sia stata portata a termine grazie alla sperimentazione sui ratti. Il punto critico è costituito dal fatto che la metodologia della ricerca in questione prevedesse che ad alcuni animali venisse dato un placebo e ad altri la sostanza sotto esame, dal che deduco quanto io o non abbia affatto le idee chiare in materia di placebo o perlomeno non abbia affatto le idee chiare in materia di ratti. Al contempo la rivista Moscow New, diciamo le new di Mosca, le notizie di Mosca, ha pubblicato una sensazionale rivelazione. Pare che per iniziativa del settore medico del KGB, ad un manipolo scelto di dirigenti sovietici, negli anni scorsi sia stata somministrata una curiosa e rivoluzionaria medicina. Veniva fatto loro ingoiare una sorta di elisir elettronico di lunga vita. Un microprocessore sintonizzato sulla medesima lunghezza d'onda dei loro impulsi cerebrali che durante il suo percorso nel corpo del membro di partito fungesse da benefico stimolatore della freschezza e della gagliardia cellulare. Il giorno dopo, casi di stipsi a parte, sarebbe stato felicemente espulso per le normali vie rettali, cosa non si faceva per il trionfo del comunismo. Sarà stato notato come le ricerche che rifilavano un placebo perfino ai ratti erano ricerche dedicate, almeno a quanto dicono loro, alla scoperta dei meccanismi che consentono la memoria. Non sarà difficile notare altresì come questo secondo esperimento abbia consentito, dico io, di portare alla luce invece i meccanismi che consentono l'oblio, visto com'è finita l'Unione Sovietica. Thank you.